esatto, è una cosa che mi hanno dato stasera a provare. Però è così, non fa. Pensavo, è un Mod 500 dell'Alcos, però c'è qualcosa che non va perché vedo stazionaria, hai capito, quando attacco, sicuramente è bruciato il lineare. Ah, infatti ti abbassa il segnale, se ti abbassa il segnale vuol dire che è in corto, normale, no? Infatti, vabbè, comunque la radio va bene, eh. No, la radio va bene, ottima. Radio 5, segnale 9P10. Adesso però non si è uscito. Cosa? Si è abbassato? Bene, ah, nei ritratti che ti bruciare il baracchino, ho visto che è in corto quel lineare. Lo so, ma infatti l'ho staccato. Andavi, dai, rimetto tutto quanto a posto. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Avanti, Lucarie. Qui stavo vedendo il Sommercamp, 480R, 150 euro. Ma quello base? Via. E ho avuto anche quello. Ma è vecchio, brava. Vintage, Sommercamp 480R, poi che è simile al 101 Digital, capito? Solo che quello là è marcato Yaesu. Ah, è K, esatto. Ho produsi, per carità. Comprati quella là la radio da Giuditto. Sono rientrato, ho fatto il tutto e sono a posto. Oh, dai, io mi sposto un attimo, ci sentiamo dopo, ok? Ok, ciao. Gariello. Vediamo un po', Riccardino, mi senti? Ciao ragazzi. Attenzione Natalino, se tu ascolti questo doppio modulatore che ti chiama, Cavagaba. Sì, Cavagaba è Cavagaba. Dove? Davvero. Davvero Luca? Capito via, H.I. Elu. Elu, Elu, Dado, Elu, andiamo, andiamo, che? Bobo. Io un po', Riccardino, mi è sembrato di sentire, avanti, ci sei? Riccardino, ci sei? Qua, sono qua. Sono qua. Mi sei Natalino, non Riccardino. Riccardino stavi chiamando, ho capito Natalino. A chi per me moglie me, che me, ma niente lo dai bizzo. Qua, mane. Concetta, cosa stai facendo Natalino, eh? Cosa stai facendo Natalino? Concetta. Claudio. Linus. Bene Marco, ci sono, sì. Bello, forte, prepotente. E col bip corto. Ma è identico, adesso lo togliamo, va. No, vedi, così corto è, non è male. Addirittura una volta l'ho messo a 50 millisecondi, però quasi non sentiva. Era talmente corto che non rendeva. Come l'abbiamo messo noi è ottimale. Mi se avessi potuto farlo qua, questo è fisso di bip, non hai né interruttore né niente, è troppo lungo. No, ma ti dirò che non dispiace quello che hai tu. No, mi hanno dato una radio, un Midran Alan 48 curata d'oro. La radio va bene, però l'amplificatore deve essere in corto. Infatti, adesso vediamo cosa vuole fare. Diciamo che non saprei neanche quanto proposi, perché vorrei aggiustato. Luca, ci sei, ti volevo dire un particolare. Chi è? Dimmi. Allora, che io ricordi, questo 3009 omologato è monofinale. Cioè il finale finale, cioè a parte il prefinale, no, è monofinale, ecco perché non li puoi spingere anche più di tanto, perché magari in 10 watt riesci a ottenerli 9-10, ma poi la radio sparisce. Invece alcuni apparati, come può essere il Pluto, credo fosse doppio finale, e lì lo potevi spingere un po' di più, però qui lo dico, qui lo nego. Tino, ti risulta che il Pluto fosse doppio finale, a parte il prefinale? No, però sono sicuro di questo, di sì. Sì, quello lì sì, il 5000 eccetera c'ha il doppio finale. Infatti ne ha 12 AM, puliti e nullo. 40 FM e 40 SSB, e non è poco. Però come l'ho fatto fare io, adesso io sono diciamo che a minimo, però posso salire, capito? Eia. Aspettate che sono a... sto tenendo d'occhio in cucina la roba in forno, dai. Mi manca un QDX per ora. Bene, bene. Luca. Il 6009 ti è usato? Il 6009 ti è usato? E chiamiamolo così, questo è l'RH5005. Capito? Quello che ti ho consigliato io. Luca, ti mando una foto di un oggetto. Adesso sono in ponte se pigliare lo strumento o quell'oggetto. La batti romana. È una cosa comunque simile a quello che a uno dei due che vuoi tu. Ma ho perso lo smartphone, magari l'ho messo in forno, il microonde l'ho messo a cuocere. Trugo zibè. Luca. Bea e Tino. Aspetta, faccio una prova, se mi guardi il segnale, mi togli ti stacco. Vai. No, aspetta un attimino. Aspetta, non temere. Che bagana. Allora, adesso io sono normale, sono con 2 watt. Ora, guarda che sono 10, guarda, adesso però aumento. Adesso sono 10 watt modulati 15. Aumento. Ora. Allora. Col fischio sono 40 watt. In AM stiamo parlando, Ma ne hai fatto 9, 9, 10. Guarda, adesso però te lo porto a 5, guarda. 5 watt, ok? Guarda. Mi dà quasi 30 watt con 5 watt di normale. Allora, fai 9, 10 abbondante, non va a rischiare. Lo sto dicendo, però guarda, così sono col cursore tutto chiuso, praticamente mi sta dando mezzo watt, dai. Guarda quando lo aumento. Ok? Lo riporto indietro. Questa è la modifica. Vabbè, la modifica, c'è una regolazione, proprio modifica. No, è una regolazione. Ha dei picchi allucinanti, che. Ed è semplice a farla? A me l'hanno fatta, io ho iniziato a farla e ho regolato la radio. Poi per il watt me ne hanno allineati, diciamo, in base alla radio che c'era. Ho capito. Aggiungavi, non lo so. Guarda così, quanto è adesso? 9 più 20, sì. Ma sono 0 watt, non sto sfruttando i finali della radio, hai capito? Ma si è agganciato. Non sto sfruttando i finali della radio. Va bene signore, vi mollo, era giusto per fartelo sentire e fartelo vedere, che devo fare cosa. Beh, ci sentiamo più tardi se coincide. E poi in base alla regolazione che mi ha detto Marco, perché questo apparato ha anche il rettilin interno da regolare, io ce l'ho a metà, perché il massimo mi sembra, Marco ti ricordi c'era 64 o 63 la regolazione, io ce l'ho a 30. Ah, il mic gain vuoi dire? Sì, 63 è il massimo, perché tanto se vai oltre va a 1, quindi quello è il massimo. Vabbè. Quindi Luca, puoi ancora regolarti la radio, ma io già credo che sia forte così, quindi non credo di metterla, anche perché vai a strappare poi. Certo. Sì, ho visto la foto, Marco. Vabbè, questa... Aspetta, ti saluto, ci sentiamo più tardi a casa, ciao. Ciao, Tito. Allora, il 6009 alias 5005 ha le stesse identiche dimensioni del 3009, no? Questo che hai visto adesso è come il 6009, 5005, però è più piccolo di dimensioni, un po' più contenuto, più compatto. E me ne gioco innamorato, c'ha il display che puoi cambiare il colore. Mamma di turchi, mi sta piacendo un sacco. Quindi ho lo strumento buono, ho un altro baracchino. Ascolta a me, quanto costa questo? 179,90 da Media Globe. Dentro potrebbe essere non proprio uguale, ma simile al 6009 e company. È una versione più ridotta, però è, caspita, se tu guardi il video, no, Alinco 135 DX, no, e puoi mettere il display rosso, purple, che sarebbe come una specie di violetto tra il rosso e il violetto, oppure azzurro scuro, azzurro chiaro, giallo, verde. È spettacolare, guarda. È molto bello. E guarda quanti watt da? Pochi. Quello ne ha, no, pochi, vabbè, 12 AM, 20-25 in banda laterale. Diciamo, non è dei più potenti, però molto carino. Quello ce lo vedo bene in macchina, che è un po' più stretto in larghezza, più compatto. Forse anche in altezza è più compatto. Un bel giocattolino, eh. Come si chiama? Alinco VX10. Sì, aspetta che te lo dico, eh. Alinco DX10, che poi sarebbe l'ex DR 135 DX. Allora, su eBay costa 199 più 790. Sì, quello è Media Globe, però su eBay te lo vende a 199 perché deve sostenere le spese di eBay. Invece se vai al sito Media Globe, 179,90. Spedizione, siamo lì, appena di più la spedizione, tipo 10 euro, 11 là. Ma qua dice Alinco DJ-A446, dice trasmettitore PMR 446 MHz, 8 canali, microfono auricolare. Luca. No, questo è un apparecchio CB, questo Alinco DX10. Luca. E non solo. Aspetta, Luca. Puoi passare un attimo al canale 30, sto facendo una prova. Ok. Arrivo subito. Ok, grazie. Scusate, riprendi, ma. Eia. Adesso leggo il messaggio. E qua cosa? Aspetta, che c'era qualcosa di toccato. E Natalino, ci sei prima di tutto? Avevo le rifighin, l'avevo abbassato per dare meglio dei controlli. Non me ne ero accorto, adesso lo alzo. Chi sei rimasto qua? Io sono rimasto. Solo tu ci sei, chi altro c'è qua all'ascolto? Nessuno risponde, solo io. E gli stavo facendo vedere a Luca un altro apparecchietto simile, più compatto come dimensioni, molto carino, molto. Porca miseria. Che poi è quasi un duplicato di quello che ho già a me, però mi sta piacendo molto. Penso che rinuncerò a Rosemary Drive pur di prendere questo. Signore. E poi però siamo punti a capo. Cioè, apparecchi e poi non c'è uno strumento serio. E sempre così va a finire poi, lo so già. Ma che vuoi che ti dica? Io lo strumento serio te lo volevo dare, solo che a te non piace perché c'ha il coso piccolo. Cioè è bello come strumento, però avrei voluto proprio strumento grande per la mia vista, che non è più quella di una volta. E poi conta anche una cosa, che la sezione accordante a me non serve più. Mi serviva quando avevo quel bel veicolare multibanda, che tu ben conosci. Lì potevi accordare ovunque. Su, quando me lo mettevo in macchina, quello lì. Che avevo il kit di separazione e tutto, cioè avevo solo il frontali, era una bella. Come ti capisco. Sì, poi nelle ultime versioni il kit separazione era di serie, lo sai, una volta forse era ancora opzionale, e negli ultimi te lo danno di serie, è molto utile, non che io l'abbia mai usato. Poi vabbè. Ok, loro sono andati al 30 a fare fare delle prove, vediamo se te l'ho mandata questa immagine, vediamo un po', faccio controllo, se no te la mando anche a te. Cara. L'hai visto? È praticamente la stessa cosa che conosciamo già, ma leggermente più compatto. L'ho visto, l'ho visto. Seguirò il consiglio. Sono in cucina, è nata lì. Io ho capito che stavi andando a mangiare. Hola. C'è qualcuno su 10? Attento 10? Chi sei? Avanti, chi c'è su 10? Avanti Roberto, buonasera. C'era già, no, c'era qualcuno altro sotto, chi era? Non lo so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito, si è fatto. Non è Riccardino però, non mi sembra. No, no, non è roba di Riccardino. Ecco che c'è radio seggia. Col Cobra. Ah, questo infatti si senti un po' diverso, per un po' neanche ti riconoscevo. Sì, questo è il Cobra. È il Cobra Mologascio. Ah, c'è l'eco. Scappa dal microfono, sì. No, è bella la voce, è bella chiara, dai. Diversa dalla solita, però è buona. Sì, già va bene, già va bene. Va bene, va bene, va bene. Che devi vendere, Roberto, non vendi? No, Roberto, ho finito adesso dall'officina, che non vendi, magari. Io dalle 8 fino adesso, sono in officina, pausa a pranzo, un'oretta e poi si ripara. Allora, va. Vabbè. Da la sola è così. Non c'è nessuno, come mai? Dai, avanti, avanti, avanti. Brava, brava. Chi è che sta parlando? Io. Perché? No, sento gente parlando sotto, boh, non so chi sia. Boh, stavo dicendo, come non c'è nessuno? Boh, io mi sono riposato. Vabbè, c'ero prima, poi mi è venuto un colpo di sangue, ho detto che chiudevo. E mi sono fatto una bella pennichetta. Chi c'era? Lattarino. Perché c'è la Lucca, insomma erano due o tre là. Ok, devo andare sempre da Lucca, ci avrà 15 giorni un alimentatorino di computer di mio nipote che mi ha salvato uno spinottino, si è appentato Lucca e l'ha aperto tutto quanto e devo andare sempre a ritirare, non c'ho un attimino di tempo. Di sera quando esci da officina. Oggi ho fatto un sacco di cose, però la predanietta, poi ero in fretta, non ci sono passato, se no sarei andato a riprendere. Vabbè, pare sempre che adesso vada. Sì, adesso sembra tutto normale, hai visto il traffico che c'è? Non sei uscito oggi? No, negativo, non sono uscito. Ma sai la gente che c'è in giro? Tu non hai neanche te le immagini, c'è la gente, è una cosa normale, dai. Però come che niente fosse, tutti in giro. Sono passato, poi hanno fatto la rotatoria, l'hai visto tu dove c'è... Sidernet che esce da Predanieta, vai per Mauris, Mercato all'ingrosso, adesso hanno fatto la rotatoria lì. Ah, una cosa buona, dai. Se l'avessero fatta forse un paio di mesi fa, con la persona che si sono fracassate, che hanno decollato le macchine e ci sono uscite in mezzo alla campagna, probabilmente non si sarebbero fatte niente. Vabbè, purtroppo lì succedono, specialmente quando ti metti per andare verso Sassari. Bisogna stare un attimo, ci vogliono quattro occhi, perché quando la parete esce dall'alto. Ma ci sono quelle corsie di accelerazione, perché tu sei la 131 andando verso Porto Torres, sei più o meno all'altezza sopra la motorizzazione, dai, prima della città mercato. Cacchio, di lì te ne escono una manetta, neanche rallentano, me lo sai, poi trovi quello che sta sorpassando, di mai sente cose brutte possono succedere di lì, c'è sempre un po' di fortuna che riesce a salvare la situazione, se no si fracassano, poi di lì cammina una manetta. E già lo so, sì. Perché io vado spesso e volentieri a prendere le mangime per gli animali, lì c'è la sala di Alghero, poi rientrando, quando rientro verso Predanieta, devo ritornare verso il Sassari, un casino. Non lo so, ma anche e soprattutto se non a Porto Torres. Sopra cosa c'è? Lì. Più avanti la motorizzazione, un po' prima della città mercato, quella che arrivano da Santa Maria, che ne arriva la manetta, tu stai camminando, te ne escono da lì, oppure il pezzo dove c'è per andare a Piandanna, lì, dove c'è la motorizzazione, lo stesso te ne escono senza guardare, convinti che c'hanno precedenza. Sì, ma anche se ha la precedenza, controlla sempre, no? Cosa metta? Vabbè, se uno magari è distratto, sta vicino a mortale perché hai la precedenza, cosa vuol dire? non lo so, però lì c'è anche il divieto di sorpasso, la gente si mette anche a sorpassare, la cosa brutta è quello, poi ti esce quello lì di cacchio, se appena appena rallenti quello che c'è dietro che è distratto ti damponeggia, è troppo pericoloso lì. Se l'avessero costruite come Dio comanda, nel senso con belle rotatorie, allargamenti eccetera, prima di fare queste cagate di corsie, solo qua le vedo queste specie di corsie di accelerazione, sono troppo pericolose qua. Lo so, poi c'è il fatto che non ce la fai mai a entrare, perché ci sono macchine che arrivano una dopo l'altra. Sì, non lo so, è pericoloso. Ok, facciamo una chiamata generale, vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione, canale 10, che vuole entrare avanti. Buon appetito a me, ciao, a dopo. Certo, sempre Magnanebbe e Marculi. Ehi, eravamo fino a poco fa in radio, poi un po' ci siamo sparpagliati tutti, dai. A dopo, Robè, sono iniziando adesso a mangiare. C'è anche Gianni. Questa cos'è, la merenda? No, questa è colazione già. Ah, scusa, la colazione. Scusa se ho osato. Lui c'ha 6 ore di fuso orario, forse anche 8. Lui c'ha quello del coso, del Kansas. Di cosa ce l'hai tu, dell'Arizona? Allora, prima ero tipo East Coast, no? New York e dintorni. Adesso sto arrivando a orari tipo West Coast, tipo California, Los Angeles. Infatti adesso mi sembra essere dall'altra parte, dalla costa ovest. Gianni, ma questo ce l'avevi già da prima, questo apparecchio, o ce l'hai adesso da oggi? No, no, ce l'avevo da prima, vabbè, è l'ultimo che ho preso. Ma non uscivi mai con questo? Diciamo che non entravo mai, perché dicevano tutti che aveva la radio bassa, questo e quell'altro. E poi gli ho fatto un microfono io, da 2 microfoni ne ho fatto uno. E mi hanno detto che andava bene, quindi ogni tanto lo uso. No, va bene, chi l'ha detto che va male? La radio va benissimo, che cacchio. No, adesso, ma prima con il microfono normale dicevano che era basso. Non so, io non ti ho sentito, ma se la radio è chiara, poi basso è un altro discorso. Però parlate che sia chiara, è inutile che c'è la radio alta alta e poi tutta distorta. E viene niente me con radio alte che poi non si capisce niente. Come i Mules quando entra Gianni. Cos'è? Oppure quella che fa Ziabuluzzo, la radio, che fa dei rumori di strani di sottofondo. Di chi? Non ho capito, scusa. Mules, ho detto, di Gianni di Mules, a volte entra e tutta quanta rumori a cose. Infatti, molte volte, ma non solo lui, ce ne sono tanti altri che hanno la voce e tutta la bombardamento. Il cabasso appena appena, così è pure più chiaro, meno stancante. Adesso c'è Marco, non per vantare a Marco, esce pulito, tranquillo, si fa sentire, c'è Binario, come si chiama, Franco, c'ha una modulazione spettacolare, bella, chiara, amplificata giustamente, senza avere spaccamento di timpani. Vabbè, Rita Maneia è fascia la Recci, buh. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, cosa vuol dire, purtroppo ognuno c'ha... Però tante volte non si rende conto che magari se è troppo alto esce male, capito? Non si comprende nulla. Sì, già lo so, ma poi più se amplifichi troppo, poi vai in saturazione e distorce la voce. È inutile che tu la fai sentire forte, tipo un megafono. Cioè, presente, tu parli voce naturale e poi vicino ti metti il megafono. Molte volte se parli anche troppo veloce o troppo vicino, non capisci quello che sta dicendo, devi dire cosa hai detto. Ieri ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, era tutto tranquillo, tutte persone senza microfoni troppo esagerati, ieri notte ci capivamo bene, non mi pare c'eri anche tu per un momento, mi sembra già. Oh, io ieri notte non sono entrato perché mi sono guardato tu sì che Vares, che c'è Belen, non me la perdo mai. Chi c'è? Belen Rodriguez. Ma boh di Dio, no? Mamma mia, una persona antipatica. Vabbè, ma è buona però. Ma cosa, se la vedi davvero, anche tutti quanti, è buona Elisabetta Canali. Si guarda dal vivo, è un ruccio vissuto, c'ha solo un po' di seni, un po' coso, ma non è niente, nessuno. C'ha le braccia che sono quanto un manico di scopa. In televisione ti ingrassano un bel, guardatela nella realtà, senza trucco e senza niente. Se ne vedi e dite cos'è questo, ne trovi molto meglio di lei, di donne. Anche il cane mi hanno mangiato di questa favorita. So che è venuto da te a farsi riparare la macchina. Chi? Elisabetta. Elisabetta è la nipote della madrina, vabbè, è morta adesso, di mia sorella. Il coso è la sorella, la come si chiama? La mamma. la sorella del padrino di mia sorella, ci conosciamo da una vita. E la mamma di cazzo di Elisabetta, sì, che adesso vabbè è grande, ma quella sì che era una bellissima donna, c'aveva degli occhi, un corpo spettacolare. Lei è appariscente, è bella ragazza, però no, una cosa è dire carina, un'altra cosa è dire bella. Vabbè. Meglio che un pugnaocchio, sì. Ma Belen è fatta bene, dai, diciamo la verità. Ieri c'era i pantaloni, ma era una favola. Anche i cani ne hanno mangiato di quella. E ha detto bene Giulio, ha consumato più, eccetera, eccetera, che scarpe, che botte, diciamo. No? Sì, compreso anche la sorella, a caridare. È inutile che sia una bella donna quando fa schifo, già. Schifo nel senso per il suo comportamento, non come l'uomo, ma il suo comportamento. Quella che quella. A me già lo sai che mi piace, che è semplice e semplice. Una taglia è strada. Quella è una ragazza tranquilla, quel sapone, la sua cicciottella che non si vergogna, lei è una ragazza normale, carina, che gli fa secondo me 10 al 0 a Belè, prima di tutto non è un'occa. E c'ha una persona con personalità. No, una taglia è strada, scusa, Vanessa è incontrata, ho sbagliato. Non l'ho mai detto, poi averla. Vanessa è incontrata, no, Natalia Estrada, vabbè, anche Natalia Estrada non è buttata, Vanessa è incontrata. Vado nel QT a Capicolino, dai, ripeti tu Giulio, buonasera intanto, anche a te Marco, buonasera, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, ciao Roberto, ciao Marco. Così è Roberto, purtroppo sono apprezzati questa gente perché sono puttane. Se fossero state persone serie probabilmente la loro bellezza sarebbe passata in secondo piano. Siccome sono puttane allora viene esaltata anche la loro bellezza, che effettivamente ce l'hanno. Però viene offuscata dal loro comportamento che hanno, ma caridaia, ui, lasciamo perdere, vai Roberto. Ciao Giulio, ben sentito. Volevo dire, ho letto la telecamera, invece sto dicendo Vanessa incontrata, una ragazza semplice, senza troppe sofisticazioni, seria, non è una cosa strana come ti può essere Belen, come si dice da queste parti, ha consumato più eccetera eccetera che scarpe, detto alla Grezza, vabbè, lasciamo perdere. La stessa cosa è la signorina Canalis, o signora anzi in questo caso, no, non mi piacciono i personaggi così. Secondo me vai e ti faccio andare in certi posti, non qua in Italia, pure che ce ne sono normali, ragazze normali in strada, le trovi molto, ma meglio di loro, normalissime persone normali, senza andare molto fuori. Ce ne sono migliaia e migliaia, anzi milioni di donne, molto ma molto milioni di questa gente, che poi questa gente appare molto bella, così tra virgolette per conto mio, bellissima tra virgolette, soprattutto perché sono tutte rifatte, tutte piene di accidenti, hanno fatto niente con tutto il macchiaggio che hanno addosso e poi vedi che cosa sono, ma caridaia, oh yeah. Sì, tutto quello che vuoi, abbastanza popolare, tu puoi trovare qualsiasi apprezzamento, non ci sono problemi, però alla fin fine, quando posso rifletti un attimino in maniera obiettiva, dici ma qual è la prostituta, quella che si mette in strada per pura necessità, per fame, o questa gente che sono imbottite di soldi, e fanno la stessa vita, a parte azienda. E poi io passo sempre da vedere a me, uno se fa televisione, una donna se fa televisione è perché si è prestata, perché si è data, se no non le farebbe di televisione, questo è scontato. Sì, a certi livelli, soprattutto quelle che hai nominato tu, lasciamo perdere. La moglie di Cade, una subpersonaggio, cavolo, che vergogna, donna, chi si crede che sa che è una scimmia. Quello perché è un disgraziato anche lui come giocatore sarà anche bravo, però come moralità di uomo è proprio un grandissimo imbecille. Sembra che sia lui addirittura l'esita che invece la moglie a fare certi sistemi di vita. Vabbè, Burugame che la vuole bene è l'altro, il primo marito che aveva, che intanto glielo dice chiaro e tondo quello che è. Al di chi una donna e 5 figli, con 5 figli da fa calendare. Oh yeah. Sono un poverello lui, perché quello è una persona seria, Claudio Lopez. Ma già l'ha detto Maradona che è un imbecille Icardi, cazzo, che l'ha bruciato la moglie, anche se non era sposata con Claudio Lopez, ma c'aveva tre figli, gli ha portato via il marito col cacchio di coccio, cioè la moglie è il migliore amico suo, una vergogna. Infatti in nazionale non lo vuole nessuno, non lo può vedere nessuno in Argentina, e qua in Italia è la stessa cosa, ne ha fatte tutti i colori e se l'ha nel vola all'Inter. Sì, a causa sua, mia, a causa proprio della moglie che ha avuto i problemi con l'Inter. Io ripeto, come giocatore può essere anche buono, non bravissimo, però diciamo, perché per me è sempre un giocatore molto, ma molto, molto fermo. La palla, la fortuna che riesce a buttarla dentro, questo sì, ed è quello che conta, tu mi dirai, ma questo è un altro discorso. Diciamo che più che altro la tiratore d'aria, ma non un giocatore, secondo me. Giocatori sono altri, giocatori sono altri. Io spero che non lo prenda la Juve, non per niente, perché non tanto per lui, quanto per il fatto della moglie, perché quella lì poi crea malumore nella società, come lo sta creando anche nel Paris Saint Germain. Ma la Juve, io guarda, non sono juventino, però sono contento se lo prende la Juve, così lo mette in riga e gli insegna l'educazione, perché la Juve c'ha una cosa bella, lo stile, l'educazione, il rispetto. Appena sgarri, tu basta vedere quanti se ne sono andati i giocatori che hanno fatto gli scemi, l'ultimo era Vidal, quell'altro Cáceres e tutti quanti, tutta quella gente lì, tutta gente montata, le regole sono queste. Se no a casa non ci deve essere né scandali né niente, e c'ha quello di invidiabile la Juve, come era tanti anni fa il Milan, quando c'erano Maldini, tutta quella gente lì, Tassotti, Baresi, e chi si andava a fare lo scemo. Adesso negli spogliatoi ognuno fa di su che vuole, non esiste il rispetto e niente. Mi con Conte un po', non lo posso vedere Conte, però ha messo inquadrato un po' le regole. Marotta idem, vai a Paris Saint Germain, adesso ce lo mandano anche di lì, solo che non si sono resi conto che non è che c'è tanta di gente che può spendere quello stipendio. Lei voleva più soldi, la signora. Ed è quello, ogni 3-4 mesi e anche di meno chiede sempre l'aumento, e per l'aumento è tutto incominciato da questo particolare, che questa donna non faceva altro che continuare a chiedere. Ma se tu hai un contratto per un determinato periodo già stabilito con una certa somma di soldi, per quale motivo tu ogni pochi mesi chiedi aumento alla società? Te ne rendi conto? Tu non fai altro che creare scompito nella società stessa. Poi, ripeto, lui è anche deficiente, perché se fosse stato un uomo vero, uno che sa fare l'uomo, non uno che non lo sa fare, perché quello non lo sa fare l'uomo, quello lì è solo un pupazzo, è il pupazzo della moglie, avrebbe detto: ma ascolta, fai una cosa, mettiti da parte, al calcio ci penso io, e tu fai altre cose, visto che faceva la sombrezza, quella cena ci facesse, perché era anche lì nel mondo dello spettacolo, ma è meglio che quella lì se ne sia veramente da parte, perché l'ha rovinato quel giocatore, perlomeno come immagine. Sì, gli ha creato tante antipatie, ma anche quei compagni di squadra, non lo può vedere nessuno, l'hanno dovuto mandare via perché stava rovinando lo spogliatoio, era la prima donna, il cosiddetto lui, prima donna, infatti subito, noi non sappiamo esattamente quello che è successo, ma me lo immagino, lui sicuramente ha voluto fare il grande, e alla fine i compagni della squadra hanno detto: oh, abbassa la cresta, probabilmente ha pigliato che ci ha fatto a faccia, a buru, e se l'hanno cuturvura. E adesso hanno messo Andanovic, che è un signore, a parte che è un grandissimo portiere, è un signore, non l'ho mai visto lamentarsi, sempre elegante nei discorsi, nelle interviste, cioè, quello è un capitano, no? Un imbecille come te Ghizzo, ti fanno capitano e ti devi dare l'esempio, cacchio. Ma come Spalletti le ha dato un'umiliazione, le ha detto: da oggi tu non sei più il capitano di questa squadra. Vi ho lasciato parlando di donne e vi trovo parlando di calcio. Ma vabbè, la moglie di Goso, Guandanara, come ti si chiama? Perché sono sempre legati allo stesso giro, o già, allo stesso vizio. Sì, lo metto. No, ma il discorso è questo: quando tu pensi solo una cosa, che una società che non apprezza appieno un giocatore che in 19 presenze le fa 17 gol, vuol dire un motivo ci sarà. Siccome le società vivono di gol, io non capisco come mai ci possa essere tutta questa antipatia e tutta questa diffidenza nei confronti di questo giocatore, considerando che, ripeto, ha reso, perché anche col Paris Saint-Germain, finché l'hanno fatto giocare, ha reso, perché ha fatto 19 presenze e 17 gol, e non è poco. Tutto questo perché questa brutta immagine creata tutta dalla moglie, basta, non c'è da fare. Avanti già, a te ti piace vedere così, se piglia tira, avanti. Vabbè, dai, già tira, dai, già piace a tutti, non piace solo a me, già piace a volte a gente. E poi quello che ha fatto, vabbè, forse è dovuto anche al filmino che è girato sul web, hanno avuto questa considerazione di lì, ma ci sono tante donne che fanno quello che ha fatto lì e non si sa. Quindi magari la reputazione se l'ha fatta anche da quel filmino, capito, che il ragazzo, ex ragazzo, ha messo sul web. Però diciamo che è una bella donna, piace a molta gente, sì, non dico che sia tutta naturale perché già è rifatta, in certe cose è rifatta, però è rifatta bene, ci sono donne che sono rifatte e sono brutte, c'hanno le labbra che pare di un materassino gonfiabile. Invece lì le donano tutto le labbra che si ha fatto. Obbiato, fammi un attimo. Io le tromberei tutte. Tu non le fai niente, tu non le fai niente a quella gente, perché qui vi sono abituati a grandezze innaturali, perché hanno sommato tutto quello che hanno vissuto e provato nella loro vita e dunque adesso non si accontentano più della normalità, adesso hanno bisogno di grandezze innaturali. Vai già, vedi che quella lì è venuta in Italia proprio con lo scopo, capita, con lo scopo ben preciso, come ha fatto anche la sorella dopo di lì, di fare le prostitute, e ci sono riusciti, buon per lì, naturalmente così devi far soldi, e cosa vuoi fare, dai, alla banca, avanti Marco. Sì, yeah. Credo che Roberto si sia assentato un istante. Comunque concordo che Vanessa incontrata, che anch'io confondo con Natalia Estrada, Vanessa incontrata con i capelli leggermente rossicci, un po' di lentiggini, vedi, lei è una ragazza più seria, non è barrosa, è molto solare come carattere, non fa le cagate, scusate il termine, che fa Belen, no? Che fa vedere la mezza farfallina, no? Questa è seria, molto buona di carattere, mamma ha detto che le piacerebbe averla come si dice, già nel grado come nuora, per dire. Poi vabbè, Belen sì, ogni tanto fa la barrosa, fa la giabidona, però una botta ci sta una botta, e così tante altre. Ehi, vai Gianni, dai, se no scantono. Marco, quelle cercano gente che va di là. Di noi non se ne fanno niente. Sì, vabbè, quello è ovvio, no? Quello è ovvio. Poi, come dice Giulio, quelle sono abituate, no? Magari a gente di colore, a gente sudamericana, già hai capito, no? Anche a te, no? Vabbè, però come, cioè, la corteccia prefrontale apprezza le forme e tutto il resto. È troppo sopravvalutata, se quella mattina quando si sveglia senza trucco né niente le prendete uno spavento brutto. Ti dico subito una cosa, una persona che si mette con Fabrizio Colonna, boh, hai detto tutto, ma cari dai, ui. Ti si è fatto brullare le mora. Ehi, Robè, comunque ero concordemi con la Vanessa incontrata, è seria, solare, simpatica, carina anche con quelle lentiggini, e non fa le giabidure che fa Belen. Sì, ma ce ne sono tante in TV di gente così, tutta quanta esaltata, dai, lasciamo perdere. Ok, dai, parliamo di antenne. Appunto, parliamo di antenne, quando le piacciono le antenne, degli umani le piacciono a quella gente lì, Robè. Tu basta pensare solo una cosa, ultimamente che era con Iannone, era fidanzato con Iannone e se ne andava a farsi fare da Borriello, se ne faceva una cosa che da che fa schifo, come fai? Poi basta pensare solo questo, bella quanto vuoi, tutto quello che vuoi. L'ha girato a tanti uomini e nessuno se l'ha mai presa fissa. L'hanno sempre scartata, se l'hanno trattata a loro non bene, a loro piacimento, e poi l'hanno lasciata. Avanti. Questo mi sembra che un po' spiega tutto, no? Vai Gianni. Sì, magari sfortunata, vai anche tu. ma sono loro magari che non vogliono l'uomo fisso, capito? Sono loro che le piace girare, e ci sono tante donne che fanno così, le piace girare gli uomini, e poi si fermano magari con quello che sta bene, che c'ha soldi, e sono quelle che stanno meglio di quelle serie, capito? Quelle serie stanno con uno, si accontentano e basta, invece ci sono quelle che le piace girare, girano, hanno mangiato un bar di setti forri, come si dice a Sassari, e poi trovano la persona magari altoloccata, quella che sta bene, che gli fa vivere una vita alla fascia. A voi ve la ricordate una cosa? Facciamo due esempi. E due Spanek, ve la ricordate? Sì, che ha 71 anni, Luigi, ma... Cosa ha detto? Scusa, oggi, cioè, non Luigi, oggi, no? Dico, adesso che ha 71 anni, ancora è sempre una bella donna, però anche lei, lui, e non solo quella, Stefania Sandrelli, e tanti altri, tutte queste persone che hanno fatto quel genere di vita, o Gianni, lascia perdere, mica quelli non ci vanno col presente e squattrinato, quelle sono persone che hanno sempre, si sono sempre prestati a gente che è assurdi, perché il loro scopo è quello, sicché lo è. È solo che hanno il vizio di farsi infornare, ecco qual è il problema, la loro passione, farsi infornare, boh. Poi a questo punto una donna che fa così, come la puoi giudicare? Elegantemente, chiamiamola elegantemente, diciamo prostituta, diciamo obiziosa, come se la vogliamo chiamare, io non lo so, perché mi sembra che un aggettivo equivale all'altro. No, il discorso mio era un altro, dice non è che ha fatto tutti quei film, i spinti, eccetera, poi ha trovato a cosa? A Montezemolo, ha abbandonato lo spettacolo, la stessa cosa Gloria Guida con Johnny Dolilli, cioè poi hanno finito il coso, hanno trovato la persona giusta, secondo loro hanno emulato tutto. Però ci sono delle coppie tipo Sandra Mondaini, tipo Raffaella Carrà, tipo chi era, altre due o tre, ce ne sono altri, sono tutti uno dietro l'altro, nuovo compagno. Sì, ma è così, ma io l'ho detto poc'anzi, questa gente pur di fare successo non solo di vendersi loro, ma sono capaci anche di vendere la loro madre o le loro figlie, se per caso è già sposate, a figlie di una certa età, loro sono disposti a queste, perché le piace il portafoglio, le piace bello gonfio, ecco com'è, e non si vergognano di niente, perché lo sappiamo benissimo, no? Chi ha tantissimi soldi può essere anche delinquente, e ne conosciamo di personaggi del genere, eppure è apprezzato, perché magari il portafoglio è bello gonfio. La gente purtroppo è così, perché valuta in base al potere monetario di una persona, invece non deve essere così. Vai Marco. A dopo. Ma che mondo è il mondo, Giulio, il mondo dello spettacolo è stato sempre così, c'è stato sempre un troiame, là. Allora chiamiamo le troie anche quelle, non solo quelle che si mettono per strada per pura fame, allora non chiamiamo i personaggi vizi, allora chiamiamo anche quelle troie, mi sembra che quelli già, si è considerato che fanno la stessa vita, è anche peggio. Adesso c'è un nuovo termine, escort si chiama, no? non confondiamo, dai. Sì, ma io ho una certa età e dunque sono ancora con il lessico di prima, per cui vai Gianni. Vabbè, c'ha male come se ti piace, però vabbè, dai. Noi magari siamo anche un po' maschilisti, perché le donne dicono loro lo possono fare e lui no, allora la cosa ci deve essere parità anche in quello, bisogna pensarla allo stesso modo. Loro dice perché voi non lo fate, le donne lo fanno con gli uomini, ma questo sicuramente non ci sono dubbi, però ciò non ci distoglie dal pensare quello che sono veramente, se poi vogliamo far finta di niente è un altro discorso, io la penso così. Vai, vabbè. Roberto Brinca. Ah, mi ha rilanciato, scusa, non ho capito, no, ero distratto un attimino, stavo guardando un messaggio al cellulare. Beh, facciamo un attimino un secondino di bianco, vediamo se nel frattempo può entrare qualcuno e lo facciamo entrare. Compagnia di Roberto da questa parte, Gianni doppio rum, Giulio e Marco che sta mandigando. Vediamo se c'è qualcuno, dai avanti. Nessuno. Riccardino, sentito l'avverso. Cattivo, oggi proprio niente. Ieri stava raccontando Riccardo, Giulio, c'ha un coraggio quel ragazzino, cavolo, fa parapendio, le ho detto a quanto sale? Io pensavo mettesse 80, dice anche a 400 metri di altezza, ho detto cavolo, e quando ci stai su? Una mezz'oretta, tre quarti d'ora. Sì, c'era al padre, sì, ma l'avevo. Oh, ci vuole un po' di coraggio mia a salire così, le braccia nell'aria a 400 metri di altezza. Il padre li ha trasmesso, certo, però bene, cose, li ha trasmesso il padre. Vuol dire che è appassionato. Comunque sono messo anche al sono sport estremi quelli, io li considero così. Oltre che andate parlate in due. Perché sport poveri, uno se deve dare a calcio, è il calcio il numero uno dello sport nel mondo. Tu mi dai, non tutti possono giocare a calcio, certo. Ma ci sono anche altri sport che potrebbero invogliare i giovani oggi. Io sono sempre dell'idea che il calcio è lo sport numero uno nel mondo, che poi tra l'altro sostiene anche tutti gli altri sport. Ci sono tanti altri sport, anche il tennis ad esempio è uno sport ricchissimo, molto ricco, più del calcio addirittura, perlomeno in certe nazioni, magari noi in Italia, ma in certi posti sì, però non c'è paragone, dai. Non c'è paragone, non c'è confronto, basta pensare all'afflusso di gente tutte le domeniche che c'è, che segue il calcio, abbiamo detto tutto, Roberto. Sì, sicuramente, anche se è lo sportivo più ricco del mondo, probabilmente non lo sapete, se no ve lo ricordo io, non fa uno sport che è uno sport d'élite e prende più soldi di Cristiano Ronaldo e messi insieme. Infatti, quello sì, già lo credo. Va bene, adesso vediamo, adesso riprende il calcio fra un po', che fa parte della mia e anche della tua passione rispetto a proposito di sport. Vediamo un po'. A proposito, ma la vita come è andata quest'anno? Vabbè, noi eravamo in terza giù, eravamo media classifica, dai, medio-bassa, dai, c'erano poche squadre, poi c'era la Coppa Italia, dovevano fare tutto quanto e poi non avevano fatto nulla. Comunque l'uomo più ricco, lo sportivo più ricco del mondo è uno che fa golf, che non c'ha niente a che vedere col calcio né col tennis. Diciamo una cosa strana, però il più ricco sportivo è uno che fa golf, che prende una barca di soldi perché lo invitano quando sono tornei e cose del genere, due colpi di gozo, di massa e pigliamo di soldi. Ok, il calcio domenica l'altra settimana riprende il campionato tedesco e c'è il derby, non mi ricordo chi gioca, Borussia Dortmund, non mi ricordo con chi, una partita interessante, dai, per chi interessa. Io preferisco il nuoto perché c'è Federica Pellegrini. Nuoto, sì, nuoto. No, anche nuoto è un bello sport, dai, con i limiti anche quello, però come completezza di sport, come sviluppo fisico il calcio è numero uno e nuoto è uno che gli sta molto vicino. Ma nuoto ti sviluppa tutti i muscoli. Le spalle ti fa diventare larghe. Io ho due nipoti che fanno nuoto, addirittura uno è anche arrivato ai campionati italiani, è arrivato secondo. Ma è nuoto, un bellissimo sport a livello diciamo dilettantistico, agonistico, ti fa un sacco di danni. Guardare i nuotatori che fanno agonismo, cosa c'hanno di consumo delle spalle. Controllati le ossa e li vedi a 40-50 anni e sono tutti ad urore, tutto consumato, usurato. Il calciatore, a meno che non c'ha infortuni o cose del genere, ma il nuoto è uno sport individuale, non è come il calcio che è uno sport di squadra. Corri, se sei bravo e c'hai il tempo, tu lotti contro il tempo, è come l'atletica, non è uno sport di calcio che tu fai parte di 11 giocatori, la tua presenza, a meno che non sei talmente scarso, è limitata alla squadra, anche puoi giocare anche 10, non è che c'è uno scompenso. Ma nuoto, o sei bravo se non va da nessuna parte. A livello di ragazzini, di bambini è bellissimo, lo consiglio tantissimo, uno degli sport in assoluto, se mi accaccio che lo consiglio, però arriva a un certo punto punto e cosa fai? O sei bravo o se ti devi fermare. Se sei bravo fai agonismo e poi dopo i 30 anni c'hai le ossa rotte, consumate. E vabbè, ma tutti gli sport, anche il calcio, quanti ce ne sono col menisco che si rompe, legamenti e questo e quell'altro, non è robe, io lo so perché avevamo i campi di fronte a noi, più di uno l'abbiamo soccorso col menisco rotto, legamenti, fanno, per dire, fai la storta sopra il pallone ti si rompe il coso, il malleolo. Quanti ne abbiamo fatto di fronte a noi, di fronte alla nostra sede, c'è la, tu c'è la presente, e via Pirandello, c'è il campo di calcio, c'è il tennis, c'è tutto quanto. Io vedevo tutto quando facevano gli allenamenti, tutto quanto, c'eravamo proprio di fronte a noi. Sì, lo so, ma quello però tiene presente, lì dice che si creano le infortuni a calcetto, perché il campo è sintetico, c'è un'aderenza superiore, per cui non c'è del terreno, per cui c'è della scarica sul coso, il fulcro è sui legamenti, sulle articolazioni eccetera. Infatti io ti posso garantire, a pallone ho giocato tantissimi anni da bambino, mi sono fatto male giocando a calcetto. L'unico intervento infortunio grave l'ho avuto giocando a calcetto. A calcio al limite frattura, il polso, cose così, però i danni maggiori se li fanno giocando a calcetto. Ti vai male perché di lì sei abituato al terreno in terra battuta che cede un pochettino quando fa un movimento, mentre col coso non cede niente, ti si punta e spacca. Quando ce l'ho ricoverato io, ho portato due ragazzi, tutti e due fratturati allo stesso braccio, che stavano giocando a pallone ancora con le scarpe da gioco, pantaloncini e cose, le ho portati su a ingessare perché tutti e due con la frattura al braccio, allo stesso braccio per giunta, ed erano di squadre avversarie. Capita quello lì, però diciamo gli infortuni non è che tutti si infortunano, c'è qualcuno purtroppo capitano, però no, in percentuale sono non più di altri sport, dai. Se fai il pugilato cosa vuol dire? Taekwondo, karate, judo, quanti ce ne sono di infortuni? In percentuale ce n'è molto di più, considerando quante persone giocano nel calcio, se tu calcoli le statistiche degli infortuni, cioè sono, si infortunano anche a scherma, nel liccino, ne vedi cazzo, quanta gente si infortuna. Statisticamente il calcio non è superiore agli altri per infortuni. Non dico superiore, ma almeno allo stesso livello. Tu mi stavi dicendo che fa male alle ossa e cose, il nuoto. Però c'è Federica Pellegrini che ci fa un pensiero. No, ma allora io non sto dicendo, il nuoto è uno sport bellissimo, ci sviluppa il corpo, però predominante le cose, le articolazioni inferiori e soprattutto le braccia. Tu se guardi i consumi di usura delle ossa, delle spalle, delle ossa delle articolazioni delle spalle di un nuotatore agonistico, te ne rendi conto cosa succede. Adesso Federica Pellegrini è giovane, ci avrà 28 anni, quanti ne ha 30, non lo so, quanti ne ha, forse ne ha 30. E guardiamola tra una decina d'anni, 15 anni e ne riparleremo. Io ho amici che hanno fatto nuoto, hanno sospeso, facevano anche gli amatoriali, gente brava, veramente brava, campioni regionali eccetera, poi a una certa età, quando ci sono i campionati per gli anziani, quelli ANTA, diciamo così, over 40, cacchio, dice no, non ne faccio più, mi faccio male, c'ho tutto a duro. Io sono andato a fare, diciamo, fotografo alle Paralimpiadi, lì al palazzetto, quando c'erano le Paralimpiadi. E ho visto diversi ragazzi disabili eccetera eccetera, guarda, tu devi vedere come nuotano, hanno una velocità allucinante. Sì, visto che siamo campioni mondiali pure in diverse discipline di nuoto, in diverse categorie, adesso non so cosa, abbiamo nella causa handicappati, disabili, non diciamo handicappati, disabili, ne abbiamo tanti di campioni, siamo campioni mondiali anche di pallacanestro, mi sembra di calcio a 5 lo stesso, ci abbiamo preso da poco, c'erano le Paralimpiadi, non so l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto belle figure, dai. Ok, vai Giulio, riprenditela tutta. Ok, Gianni, vede bene la Pellegrini, sempre che la vede bene, perché è una donna popolare, ma lui la vede bene come donna, perché lui la sta giudicando come donna, in effetti è una bellissima donna, indubbiamente. Io sempre voglio fare questo interrogativo, Gianni, se non fosse stata una nuotatrice, probabilmente l'avresti non avresti apprezzata come la stai apprezzando adesso. Tu la stai apprezzando più come persona di spicco che come donna stessa, perché se non fosse stata una lottatrice, fosse stata una semplicissima donna, così ti sarebbe stata, ti sarebbe passata accanto e non avresti forse nemmeno lottata. Ecco qual è la situazione, Gianni, dì la verità che è così. Osservate a me, io sono stato sempre un buon gustaio. Ma se parlate due, c'è qualcuno sotto già, avanti chi è? Giulio mi, a Gianni. Oltre che brava, è pure buona quella. E siccome Gianni è caldo, è logico che l'apprezza come donna. Io perlomeno l'ho apprezzata sempre come sportiva, poi come donna. E quello, l'errore che state facendo, io sono convinto che la prestate come donna soprattutto perché è una sportiva che noi conosciamo, che tutti noi conosciamo. Se fosse stata una semplice donna e non sportiva, così una donna qualunque, non avremmo parlato così bene nemmeno di lei come bella donna. Ecco qua il discorso. Sì, poi tornando al discorso degli sport, tanti ce ne sono sport belli, anzi diciamo che gli sport fondamentalmente sono tutti belli, solo che ci sono gli sport ricchi e gli sport meno ricchi, però a livello agonistico ci sono degli sport che non sono pagati, che possono essere campioni anche più di quei campioni che sono pagati a fondi miliardi. Ce ne sono tanti, solo che non essendo uno sport popolare come ad esempio può essere il calcio o come può essere, che so io, anche il pugilato a livello mondiale, che non ce ne ricordiamo nemmeno, però in realtà ci sono dei grandissimi campioni e dei grandissimi personaggi anche negli sport meno conosciuti, come ad esempio, che so io, il soldatore di Topesi, il basket, anche il basket è lo stesso, ci sono lì, va bene che il basket è abbastanza popolare come sport, ma ci sono tantissimi nel ciclismo, nell'atletica leggera, cose che magari sono sport individuali e secondo me meritano forse più di qualche campione che giocano in sport di squadra. Vai, Sì, tu hai nominato il ciclismo, infatti il ciclismo è uno sport a livello di preparazione fisica, probabilmente non ce n'è per nessuno, in assoluto insieme all'atletica e certe cose di atletica, c'è un allenamento continuo tutto l'anno, sabato, domenica, quando lo fai a certi livelli, mica rimangono fermi a Natale, a Capodanno, quelli fanno decine e decine di migliaia di chilometri, conosco uno che questo non è, che niente, cioè è anziano, una persona grande, metto che fa 15.000 chilometri all'anno, ne va di più e dove in bicicletta che io con la macchina, una persona che ha 70 anni questo, quando mi ha detto non ci volevo credere, dice ma anche 18.000 ne ho fatto, ho detto buh. Sì, ma è così, in effetti è così, io ripeto, no, vedi, ad esempio noi prendiamo adesso Sassari, che è una città che di campioni non ne ha avuto tanti, qualcuno l'ha sfornato e si è messo in evidenza. Io mi ricordo che nel periodo che esisteva, per dire, il grande Cagliari con tanto di Riva eccetera, no? C'era a Sassari, noi avevamo un pesista chiamato Peppino Tanti che ha fatto due Olimpiadi e poteva fare anche la terza Olimpiade, che poi invece si è ritirato per altri motivi. E se ti racconto la storia di questo atleta, che ancora oggi è stato riconosciutissimo, e lo potevamo paragonare a livello di sport, lo potevamo paragonare esattamente allo stesso livello di Riva di allora. Perché? Perché Peppino Tanti ha fatto due Olimpiadi, campionati del mondo, giochi del Mediterraneo, campionati europei, 17 anni di seguito campione d'Italia e soprattutto primatista italiano per 17 anni di seguito. Tu, secondo te, quando un uomo fa così, quando uno sportivo ha tutti questi meriti, pensi che sia inferiore ad un altro sportivo che prende molti più soldi a livello sportivo sempre? Vai, Roberto. No, infatti ci sono sport minori che hanno un allenamento quotidiano, mattina, sera, ma ore e ore ripetizioni. E quelli che fa gli orecchiecchi con lo sport degli anelli, mica ce ne vuole allenamento per fare quegli esercizi lì e quelle cose lì, ti devi allenare tutti i giorni, non è come andare a giocare al golf, a tennis, ti alleni sì, però ecco, quello, lo sforzo fisico di un coso di questi qua ginnasti, boh, non ce n'è per nessuno. Abbiamo con quel frequenza che era un grande campione e non lo sappiamo. Cos'è? E quel frequenza c'era uno che era un grande campione di ciclismo. Ma di chi sta parlando? Di Vittorio Giove, era nella Fausto Coppa, arrivava sempre primo. Io c'ho articoli del giornale, eccetera, eccetera, che ho visto su internet. Era sempre il primo che arrivava, ha vinto un sacco di gare. A Vittorio Radio Amatore? Esatto. No, non lo sapevo neanche. Marco, so che lui faceva motocross, ha fatto, è diventato, c'era anche campione regionale, ha fatto un sacco di vittorie ogni tanto, poi si era infortunato, si aveva rotto i legamenti, però nel campo motocross era molto riconosciuto in Sardegna. Marco è bravo in altre cose anche, tira piattello, ti posso dire nelle radio, un po' in tutto è bravo.